24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentornati a MX24. Professor Marcello Minenna, docente di finanza matematica alla London School, autore del libro La moneta incompiuta. Ecco, il futuro dell'euro e le soluzioni per uscire dalla grande crisi. Edito nella versione italiana dalla SDS. Professor Minenna, allora, la moneta incompiuta, perché incompiuta? Beh, perché mancano una serie di tasselli fondamentali di un'area valutaria. Vede, la lira è durata più di un centinaio di anni e poi abbiamo deciso noi di passare all'euro. E la lira operava in un'area valutaria imperfetta perché avevamo tra nord e sud dell'Italia degli squilibri abbastanza forti dal punto di vista economico. Sì. E come li gestimmo? Con trasferimenti di ricchezza da parte del governo centrale. Poi certo in Italia abbiamo avuto dei fenomeni, diciamo, di cattivo utilizzo di questi trasferimenti e problemi, però siamo intervenuti per fare in modo che le cose potessero che fosse compiuta in maniera più equilibrata. Ecco. Esattamente. E invece il sistema finanziario europeo si basa su tre pilastri: lo Stato, le banche e la banca centrale. Chi è il malato dei tre? Guardi, in realtà tutti e tre, purtroppo, perché a livello di Stato non abbiamo un bilancio europeo, quindi l'ipotesi che ci possano essere trasferimenti dai paesi più forti a quelli più deboli per colmare gli squilibri non c'è. Le banche, in un sistema come quello dell'Eurozona, dove sono il fondamentale polmone dell'economia reale, per tutta una serie di motivi non riescono a erogare credito all'economia reale in maniera omogenea, e dall'altro lato la Banca Centrale Europea non opera come una banca centrale. Naturale. E quindi sono tre malati. Sì, tre malati. Basti dire che il quantitative easing, cioè l'ultimo provvedimento straordinario della Banca Centrale Europea, di fatto non ha funzionato, non ha portato soldi all'economia reale, ha solo abbassato il tasso di cambio favorendo l'export, soprattutto dei paesi più forti. Della Germania, poi diciamo sostanzialmente. Ecco, ma l'Unione Europea, quindi, così, è un congegno in cui la politica viene dopo la finanza, cioè la politica conta poco. Beh, direi molto poco, se pensiamo che ora abbiamo questa richiesta di circa 3 miliardi di manovra correttiva, quando tutti sanno che le regole che portano a definire questa manovra presentano degli errori statistici più ampi dell'ammontare che viene richiesto all'Italia, insomma, voglio dire, non si capisce di cosa discutiamo del nulla. Romano Prodi, che ha scritto la prefazione al suo libro, oggi è molto critico sull'Unione Europea, che lui ha partecipato, anzi ha voluto fortemente. Senta cosa ci ha detto proprio qui a MX24 lo scorso mese. Mi sembra che lei cominci ad avere dei grandissimi dubbi sull'Europa per come è diventata. Ma certo, la stupidità umana può fare finire tutti i più grandi progetti. In questo momento c'è uno scatenamento di stupidità, come se i piccoli paesi o i grandi paesi potessero far da soli nel mondo. Neanche la grande Germania lo può fare. E quindi questa Europa che c'è oggi è destinata a morire così? Se sta così, sì, né calda né fredda. Il mezzaguardo è il problema mio. È che dobbiamo andare nell'altra sponda, dobbiamo far più Europa, se no, come ho detto nell'esempio, nella parabola, noi scompariamo dalla faccia della terra. Ecco, professor Minenna, d'accordo con Prodi? Beh, assolutamente, ma guardi, le sembra normale che all'interno dell'euro noi abbiamo gli spread tra i vari titoli di Stato dell'Eurozona? Cioè noi abbiamo un costo del denaro diverso per ogni paese. Certo. Ora, un'area valutaria deve avere un unico costo esatto. Invece abbiamo che la patologia diventa la fisiologia. Guardi, qualche tempo fa... Quindi è un modo di avere più monete facendo finta di averne una sola? Ma infatti nel mio libro scrivo di valute ombra. Guardi, l'economia finanziaria è 10 volte l'economia reale. Esatto. Quindi lei può avere anche l'impressione di comprarsi un caffè pagandolo un euro in tutte le capitali d'Europa. In realtà tra le banche, cioè tra l'economia che conta, l'euro è già superato, perché viene regolato l'euro più lo spread per l'Italia, l'euro più lo spread per la Spagna. Allora, dobbiamo prendere atto che una prima questione da affrontare in maniera forte è azzerare lo spread, e in questo la Banca Centrale Europea deve farsi capace di aggiornare i suoi obiettivi. Certo, ma altrimenti... cosa bisognerebbe cambiare nell'impalcatura europea perché abbia un senso restare nell'euro, in un euro unico, vero? È la condivisione dei rischi che manca. mancano provvedimenti che facciano in modo che i rischi dell'eurozona, dei debiti pubblici, dei debiti siano privati, condivisi, siano condivisi. Di investimento siano condivisi. Ci vuole una maggiore unione sul fronte bancario, ma le pare normale che abbiamo fatto la vigilanza europea, il bail-in, ma il fondo interbancario di europeo di no. tutela dei depositi non c'è, non c'è il terzo pilastro dell'unione bancaria. Guardi, qualche tempo fa i cinque presidenti dell'Europa, cioè Commissione, BCE, Consiglio, fecero un documento, e questo era il documento della nuova Europa. Io invito i lettori a cercarlo su internet, i nostri ascoltatori, e a leggerlo. Non c'è nulla di rischi condivisi in quel documento. E quindi manca il presupposto dell'Unione dell'Europa. Ecco, professor Minenna, allora come andrebbe modificato il Fiscal Compact, che oggi è nel mirino anche di Renzi, per esempio? Ma è giustamente nel mirino, perché nel 2017 deve essere ratificato all'unanimità nei trattati. Quindi questo è l'anno in cui la negoziazione va compiuta. Gli investimenti vanno fuori. Gli investimenti, se hanno un moltiplicatore maggiore a 1, cioè producono nel tempo più denaro di quello che serve a finanziarli, vanno levati da questo patto di stabilità, che altrimenti, come ho detto più volte, è un patto, recuperando le parole di Romano Prodi, di stupidità. Di stupidità, ecco, un patto di stupidità, tra l'altro, che non ha neanche il rango del trattato. Ma non c'è dubbio, è un accordo tra i vari governi. Ma cioè, è il modo di mascherare, come dice giustamente lei, di mascherare il marco e travestirlo da euro. Assolutamente, no, anzi peggio, è quel modo che è servito per tenere il marco abbastanza calmierato grazie alle valute ombra dei paesi periferici e garantire al marco travestito da euro di poter ottenere vantaggi competitivi nell'export verso Stati Uniti d'America e Cina. Perché è abbastanza nelle corde dell'euro come scritto attualmente, che se si dovesse rompere l'eurozona avremmo un marco rivalutato e una lira svalutata, e la distanza tra la lira e il marco potrebbe essere del 50%, si immagini. Del 50%, ma in ogni caso all'Italia in questo euro conviene restare? Ma io sono dell'avviso che con l'attuale classe dirigente, mi scusi, è più facile che portiamo questi argomenti dal punto di vista della politica economica facili e tentiamo di completare l'architettura dell'eurozona, piuttosto che ci avventuriamo in un ridisegno della lira che chiede tante decisioni di infrastrutture, di politica monetaria. Per esempio, dovremmo revocare il divorzio tra la Banca d'Italia e il Tesoro. Che cioè ritornare a stampare moneta. Ritornare a stampare moneta e far funzionare politica monetaria e fiscale in maniera coordinata. Ecco, però non è una cosa facile. No, facile di facile non c'è nulla oramai. Senta, ma intanto Trump sta incassando la fiducia di Wall Street, invece tutti lo criticano, però l'indice Standard & Poor's ha toccato il record storico, 20.000. Questo che cosa vuol dire? Trump ha fatto capire che intende fare aperture al mondo delle banche e che intende riportare capitali, investimenti e imprese in America. Guardi, l'America ha la dimensione economica, per cui se fa, gli economisti dicono, il first mover, cioè quello che prende la decisione per primo sulle barriere alle importazioni, piuttosto che sul rialzo dei tassi di interesse, magari rallentandoli un po'. Insomma, l'America con decisioni prese per prima può muovere... Può muovere tutto l'equilibrio di tutto il mondo, ma... Ecco, non c'è dubbio. Ma l'arrivo di Trump quindi potrebbe spingere anche l'Europa verso il protezionismo? Di sicuro ci sarebbero delle reazioni. A mio avviso Trump, quello che potrà tentare è spaccare l'Europa, esatto, e l'eurozona. I segnali ci sta già provando, no? Accusando accusando la Germania di non investire il suo surplus commerciale per aiutare l'Europa, dico bene? Assolutamente, soprattutto ha già fatto la proposta alla Grecia di entrare nell'area dollaro. In qualche maniera l'uomo sa muoversi. Io per primo l'ho definito un elefante nella cristalleria. Il problema è chi tiene a quella cristalleria. Infatti, di chi sono quei cristalli? Ecco, ma infatti, parlando della Grecia, professor Minenna, entro luglio la Grecia deve restituire 7 miliardi di euro di prestiti. Non li ha questi soldi. Guardi, la questione della Grecia. Siamo di nuovo al punto di partenza. È una farsa che va avanti dal 2012, quando è dal 2012, se non anzi dal 2010, che in Grecia si applicano una serie di politiche e di interventi da parte delle istituzioni europee che stanno veramente affamando il paese. Sì. Allora è chiaro. No, ma lo stanno affamando senza risultati, però. Perché ma è chiaro senza risultati, perché hanno creato un avvitamento tra banche, governo, tra banche e debito pubblico che non può che portare alla distruzione del paese. Ma guardi, nessun paese può produrre surplus primario per il 7, l'8, il 6%, cioè sono numeri incredibili. Se la Grecia dice chi se ne frega dell'Europa, uno lo può capire bene. Guardi, forse arrivati a questo punto è un piano che devono prendere seriamente in considerazione, soprattutto perché hanno un piano B, cioè l'America che gli tende che una gli dice, mano. Appunto, venite nel dollaro. Ecco, ma professor Minenna, in Italia le banche hanno 300 miliardi di crediti di deteriorati. Da cosa è dipeso? Cioè, dov'era la vigilanza? Allora, guardi, il problema dei crediti deteriorati, sicuramente da noi il capitalismo di relazione ha imperato, quindi quando si dovevano erogare crediti prima li si davano agli amici degli amici e poi all'economia reale che meritava. Però ricordiamo che il problema è un problema europeo, noi ne abbiamo 300 ma l'eurozona ne ha 1000. Senta, ma quindi tutto sommato, per tornare un istante alla Grecia, in Grecia aveva ragione Varoufakis. Beh, io sono abbastanza convinto che Varoufakis avesse ragione, non a caso hanno iniziato ad escluderlo dai vari Ecofin e dalle varie riunioni dei ministri dell'economia con improbabili pareri delle consulenze legali della Commissione europea, ricorda questo aspetto? Cioè, no? Lo ricordo bene, perché diceva cose che avevano senso, quindi rispetto alla vigilanza in Italia le responsabilità dei vigilanti sono enormi. Guardi, quando c'è una crisi finanziaria di queste dimensioni è chiaro che ci si scontra con un mondo molto difficile da controllare e da valutare, quindi c'è sicuramente una serie di responsabilità senta, che vanno condivise, ma che riguardano tutte le istituzioni dello Stato. Naturale. Senta cosa mi ha detto Giulio Tremonti in un faccia a faccia sulla Sette la settimana scorsa a proposito della vigilanza. Sono tanti anni che la vigilanza spesso si identifica con la compiacenza. È d'accordo con Tremonti? Guardi, questo è il famoso dibattito di chi vigila il vigilato e della cattura del vigilante con il vigilato. Certo, Giulio Tremonti è stato ministro dell'economia quasi per 20 anni, anche lui aveva funzioni di vigilanza, forse, no? Certo, naturalmente, per la sua parte ha la sua responsabilità, ma le banche centrali possono essere indipendenti? Sembra una domanda banale, ma in realtà non devono essere al servizio dei governi? Beh, non c'è dubbio che le banche centrali, soprattutto in situazioni di crisi finanziaria senza precedenti come quella che abbiamo vissuto dal 2011 in avanti, avrebbero dovuto avere una funzione differente. Ma guardi, qualche settimana fa Mario Draghi ha dichiarato che se l'Italia o qualsiasi paese dell'Eurozona dovesse uscire dall'euro dovrebbe pagare il saldo Target 2. Ora, senza entrare nei tecnicismi, sì, questo saldo per l'Italia, per quasi 4/5, è fatto dal quantitative easing, certo, cioè per una serie di disfunzioni dell'Eurozona. Alla fine ci stanno dicendo, poiché abbiamo fatto il quantitative easing, che l'economia reale non è arrivato nulla, si è creato questo saldo target 2 negativo, quindi se volete uscire ci dovete dare i soldi indietro. Cioè, ma ridateci i soldi che vi avevamo dato, perché non sono serviti a nulla. Ma perché i soldi sono stati dati però alla Banca d'Italia per comprare i titoli di Stato del quantitative easing? Perché si è sbagliato a monte a non fare un quantitative easing a rischi condivisi in cui i titoli di Stato dell'Eurozona li comprava la BCE, ecco, è avvenuto in America, Reserve. La Federal Reserve della Yen però oggi è in uno scontro feroce con il presidente Trump. Ma è ovvio, perché il presidente Trump non vuole tutti questi rialzi dei tassi di interesse, perché vuole un dollaro più debole. Più alti sono i tassi, più il dollaro si rafforza, mentre Trump vuole rendere il dollaro competitivo, mettere un po' di barriere all'importazione, riportare le imprese che oggi sono magari in Cina a produrre in America. Quindi ecco, è chiaro lo scontro tra in questo caso di politica economica. Ecco, a proposito di chi controlla chi e di chi deve essere al servizio di chi, il Monte dei Paschi è in una specie di limbo. Le quotazioni sono sospese da settimane, nessuna notizia sull'andamento dei conti da quando è stato annunciato l'intervento dello Stato. Ma se si useranno i soldi pubblici, non bisognerebbe chiedere una trasparenza totale? Beh, non c'è dubbio, ma guardi, qui il grande malato è la trasparenza. Quello che stiamo dicendo. Ma lei si rende conto che dall'inizio della crisi il Monte dei Paschi di Siena ha perso quasi 50 miliardi di raccolta diretta, certo, tra depositi e... il che vuol dire che come fa una banca a rimanere in piedi? Cioè, la gente scappa, semplicemente la gente diretta. Scappa perché non si fida più. Ecco, ma è favorevole lei alla pubblicazione, immagino di sì, della lista dei grandi debitori del Monte dei Paschi? Ma non solo del Monte dei Paschi, ovviamente. Per il sistema bancario è importante che si inizi a fare un po' di trasparenza, magari anche però evidenziando, non solo chi sono i grandi debitori, ma anche facendo una figura, rappresentando in maniera chiara magari perché ci sono quei debiti, perché abbiamo letto sui giornali imprenditori che per avere i finanziamenti dovevano comprare le azioni della banca, quindi dare una figura chiara di chi è stato malversato e di chi ha malversato. Ecco, e Padoan oggi è a Bruxelles per tentare di trattare la discussione sulla nuova legge di stabilità. Ecco, Renzi ha detto che basta austerità adesso, ma ha ricevuto una flessibilità di bilancio per 19 miliardi. Poi ha detto che ha abbassato le tasse, ma se guardiamo al DEF la pressione fiscale è sempre oltre il 42%. Ha anche detto che la crescita d'Italia è in linea con gli altri paesi. Non è vero, perché siamo allo 0,9. Ecco, perché la macchina dell'Italia ha la ruota sgonfia? Solo perché si raccontano delle cose che non sono esatte? Guardi, io credo che uno dei grossi problemi sia il divario di competitività tra i paesi, dove l'euro e lo spread giocano un ruolo importante. Guardi, dal 2000 ad oggi uno stesso bene prodotto in Italia e venduto in America e prodotto in Germania e venduto in America all'Italia costa il 20% in più a causa dello spread, perché la manifattura va finanziata. Come si fa a competere con il 20% di divario di competitività? Guardi che il prodotto interno lordo in grande parte è fatto da prodotti che sono sostituibili, che può fare un'impresa italiana con un'impresa tedesca. Senta, professor Minenna, un'ultimissima domanda veloce perché siamo in chiusura. Lei è stato assessore al bilancio a Roma nella giunta della Raggi, ma si è dimesso quasi subito. Già allora si poteva prevedere la difficoltà, quasi la disfatta nella quale si è inoltrata la giunta? Guardi, io su questo rinvio a quanto dichiarai il giorno dopo la mia uscita, né più né meno. Mi attengo a rinviare i nostri ascoltatori ad andarsi a vedere quali furono le mie dichiarazioni. Cioè, poi gli chiede questo sforzo. Va bene. Grazie, professor Menenna. 800 24 00 24 per le telefonate, 348 238 6666 per gli sms. Ecco, insomma. Allora, Mario, c'hai la tua bolla? No, niente, perché? Bolla, perché no, senti. La storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Allora, e cos'è la destra? Lo vedremo prossimamente. Cos'è la sinistra? Ne abbiamo avuto una serie di assaggi nelle ore scorse. È stato un weekend molto intenso intenso e divertente. Vabbè, Giovanni, tu ieri hai avuto Orlando in trasmissione alla 7. Io voglio sentire da te un po' di impressioni che hai avuto da lui e dall'assemblea. Ma da lui ho avuto l'impressione di una persona di buon senso che proponeva una cosa ragionevole, cioè di fare una conferenza programmatica per arrivare al congresso avendo le idee chiare. Ma soprattutto, però, nell'insieme della giornata ho avuto l'idea di un karakiri incredibile da parte del PD. Cioè, Renzi era riuscito in qualche modo a dare un'anima, giusta, sbagliata, ma una direzione a questo PD che però dall'elezione del Presidente della Repubblica in poi ha perso la bussola e mi sembra che stia nella confusione totale, quindi si vada verso due partiti diversi, ma soprattutto sia una corsa disperata verso il nulla. Purtroppo condivido anche io questo tuo, diciamo, scenario fosco. C'è chi dice, non so, qualcuno dice, beh, però al supermarket della politica due soggetti sono due offerte diverse, sì, e poi sommate fanno, diciamo, qualcosa di virtuoso. Non hai detto che se un'automobile la dividi le quattro ruote, due di qua e due di là, la macchina va meglio, non è sicuro. Io dico sempre che in politica 2 più 2 non fa mai 4, può fare 3, può fare 5, spesso fa anche 2, però questo è l'altra cosa. Secondo te gli scissionisti che futuro hanno? Gli scissionisti hanno un piccolissimo futuro. Quanto veri? Così? Ma non lo saprei, ma mi sembra che sia no, numeri piccoli, non arrivano a due cifre sicuramente. Mm-hmm. E il PD invece che futuro ha così? Ma anche lì il PD, non lo so che futuro ha, ma non ha un futuro di maggioranza che può governare. Credo che il vero vincitore del congresso del PD finora sia Berlusconi. Mm. Anche secondo me, anche Grillo. Anche Grillo, naturalmente, anche Grillo. Ma parlavo dell'area delle alleanze, sì, possibili. Sì, sì. No, mi sembra che si non siano... credo che Renzi, se vince il congresso, poi se alla fine è lui segretario, farà alleanza con Grillo. Insomma, lo vedo difficile. No, la vedo difficile anche io. Sono d'accordo con te. C'è una bolla, Mario? È il vincitore di questa cosa. Sì. Allora, Fiori balla, tutta la regia balla. Ballano tutti. Beati loro, se vanno lunedì vuol dire che lunedì proprio sono di buon umore. Io sono morto. Vabbè. Giovanni, ancora politica in realtà. Solo per dare un po' un aggiornamento su quello che sta succedendo in Francia e Germania, è molto importante. Si lega moltissimo alle cose che ha detto Milena nel colloquio qui con noi a Mix 24. In Francia Macron, che tra l'altro è assurdo, così a ultimo punto di riferimento di Renzi, vabbè, insomma, Macron è un po' in difficoltà, ha combinato dici che ha preso una stella cadente invece che crescente, una stellina può anche vincere i ballottaggi, però guarda, ha combinato un mezzo pasticcio voluto, per carità, dicendo che appunto la colonizzazione dell'Algeria fu un crimine, e sapete tutti che dire questo in Francia non è una cosa semplice, però delle volte le verità fanno male, ma fanno fare dei salti, sì, alla storia. Non so se questo sia il clima giusto per farlo in Francia, visto che la Le Pen è prima in tutti i distretti praticamente della Francia, tranne l'Île-de-France e in Bretagna. In Germania, attenzione, grandissima sorpresa, Schulz cresce nei sondaggi moltissimo, sì. 12 punti in 4 settimane ha preso, ha superato la Merkel ormai stabilmente in tutti i sondaggi, è avanti di poco, di un punto, però vabbè, ragazzi, però non l'avrebbe detto nessuno. Queste è un dato micidiale, dovrebbero esserci molte lezioni per l'Italia, per la sinistra in particolare. Esattamente. Non mi pare che ne stiano cogliendo alcuna. E intanto vabbè, 25 anni fa, con l'arresto di Mario Chiesa, il 17 febbraio del 92 si apriva in Italia la stagione di Tangentopoli. Per i gialli della storia torniamo a quegli anni caratterizzati da uno scontro durissimo tra politica e magistratura, anni che restano tra i più controversi della recente storia d'Italia. Questo dopo il giornale radio, ma intanto oggi cosa ha scelto per noi Gloria Guerrera? Una canzone per chi oggi, nel profondo febbraio, sogna la brezza marina, la luce, la schiuma delle onde, tanto per non morire. Paolo Conte, Una giornata al mare. Una giornata al mare, solo e con mille lire. Sono venuto a vedere questa qua e la gente che c'è. Il sole che splende più forte, il frastuono del mondo cos'è? Cerco ragioni e motivi di questa vita, ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore.